音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 不管驾驶速度有多慢， 不管车上是否有乘客， 不管是否停在红灯前， 不管是否有车载电话或蓝牙耳机， 不管谁给我打电话， 我承诺开车时不使用手机。 开车时不使用手机，不是因为你的手没有放在方向盘上，而是因为你的心不在驾驶中。 北京人民广播电台提醒您，开车时请勿使用手机。 用年轻的心演绎古典，古典中的流行 Pops 音乐。 Alas, my love, 北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天3点15点播出。 And I have loved you so long, my love, my lady Green。 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月。 请欣赏川井裕子演奏的小提琴曲，曲目有《小提琴的冥思》《夏日风暴》《悲伤的米龙加舞》《永恒》《红色狂想曲》《阿芙罗蒂的传说》《随想曲》《达拉格纳城的月光》《蓝月》。 Thank you. Thank you.

hope and joy I see, because you come to me. Because you speak to me in accents sweet, the roses wake around my feet, and I am left through tears and joy to thee, because you speak to me. Terra divina beltà, vieni. Grazie. Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre. Tutto lo giardino adorava de rosa accendeva sé. Era de maggio, io no, non me ne scordo, la canzone cantava la tua voce. Più tempo passa e più me la ricordo. Fresca era l'aria e la canzone dolce. E diceva, cuore, cuore, cuore mio lontano, maie, come lassi io con dolore, chissà quando tornerà. Amore vero no, non vota vita. E te bellezza mia ma innamoraie, si dalli corda non sarà fontana. L'acqua là dentro non se secca mai. Oh, quando sfonda la luna a mare chiare pure le piscine fanno all'amore se remota la nonna dell'umore per la priezza cagnano colore quando sfonda la luna a mare chiare a mare chiare La passione piange dulzulea, nugarofana ancora dinta la testa, passa l'acqua per sotto e mormorea, a mare chiare in cesta la feresta. C'è sta una finestra. Chi dice che le stelle son lucente non sa per suo che caso tiene in fronte. Spinto e stelle risaccia solamente chi in tal cuore ne tengo di ponte. Chi dice che le stelle son lucente. Scetate faroli per l'aria e doce quando mai è tanto tempo già aspettate. Accompagnare i suoni con la voce stasera la chitarra già pretata cercate caroli che l'aria è dolce Aspetto pure quando non va faccia fanciulli senza voi non vanno stare. Su tutti i culi testi a pilluloni. Ognuno di te non va risvociare. Si prima non si grati su balconi, dintra l'uomo. Stava detta ci sogno puro io che aspetto a voi che vidi questa faccia così bella a succa fare e aspetto puro quando va facciati. Io t'amo sempre più. caro Tony, sono finalmente a Napoli. Devo ritrovare Maria. E soprattutto devo ritrovare quella canzone di cui non ricordo il titolo e che ci fece innamorare. Pulacenella, pulacenella, popola po, se purta di qua la tella, na resella, e mosta tarantella, nisciuna va a cantà, gemò pulacenella, e fiamma la trova. E chi me botta qua, e chi me botta là, e che stu botta botta, è durmuta una muratella come si bella napulena, tiene sempre una bocchella piena fuoco di verità. Senna figliulella, casa da marito, insieme a pure sorella, e ti amerà figlia. E chi ne botta qua, e chi ne botta là, e che stu botta botta, na la gaga che gira, e stu mondo che la pazzia. E chi ne botta qua, e chi ne botta là, sta vita fa, zucchetti in su, zucchetti in su. Thank you. 天的 Pops 音乐就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有线频道下面的精彩节目。